Vendo tutto di Matteo Caccia. Da qualche tempo vivo senza la Vespa, senza la TV e senza la mia borsa a tracolla. Non gioco più a tennis, non scio più e non vado più a teatro. Eppure vivo bene uguale. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo l'aspirapolvere. Perché l'aspirapolvere è un po' il simbolo dell'essere single. O meglio, diciamo... Da capo. Facciamo così. Rimandami anche la base, Paolino, che la rifaccio. Perché, per quanto mi riguarda, l'aspirapolvere è un po' il simbolo dell'essere single. Che qua se cominciamo a generalizzare non ne usciamo più. Certo, per te l'aspirapolvere, per me... Ok, per me è stato l'aspirapolvere. L'aspirapolvere, quello che vendo oggi, è che devo dire, è un bellissimo oggetto. Non lo dico per vendere, tanto guardate, ormai l'avete capito, anche a 99 centesimi la roba la vendo, quindi non ci voglio lucrare, però è proprio bello, ha dei bei colori, l'ho montato da solo, è smontabile, è un bel aspirapolvere. L'ho comprato quando c'era Giulia e quando non c'è più stata, ho capito che era per me il simbolo dell'essere single per la quantità, per la frequenza in cui non lo usavo più, molto banalmente. 800 24 0024 349 238 6666, perché se siete single e felici, oggi è arrivato il momento di raccontare i motivi in diretta, i motivi per cui è bello essere single. Se invece siete single e non felici, magari è arrivato il momento di cominciare a goderselo un po' di più e quindi di raccontare allo stesso modo i motivi per cui è una grandissima figata essere single. 800 24 0024 349 238 6666. Ho provato a lanciare lì la pietra come al solito sul profilo Facebook che è Matteo Caccia Vendo Tutto e ho chiesto proprio la lista di cose per cui ha senso ed è bello essere single. Io ho messo chiaramente la prima, era la mia: passi l'aspirapolvere quando e come vuoi, non quando e come vuole qualcun altro. E poi sono arrivato, vi leggo prima quello degli uomini e poi quello delle donne. Così, mi piace fare un po' di sessismo. È inutile. Tra l'altro, ecco, volevo dire anche questa cosa, perdonatemi. Ci sentiamo un po' tutti single di Laura Faggin in questa redazione, dal momento che ormai sono quasi 5 giorni che non la vediamo. Esagerando, cioè partendo da venerdì, che non la vediamo, si dice che debba tornare domani. Fortunatamente c'è la buona Margherita Aina, che oltre ad essere una seria professionista è anche una compaesana, e quindi siamo felici di avere qui con lei. Ma torniamo a bomba, torniamo a parlare dei benefici dell'essere single e andiamo subito con gli uomini. Di notte, se hai voglia di vedere un episodio della tua serie preferita, puoi farlo. 3. Mangi quello che vuoi, quando vuoi, sul divano, in mutande, davanti alle TV, guardando possibilmente la partita. 4. Prima e dopo aver fatto la doccia o in altre situazioni simili, puoi girare per casa come mamma ti ha fatto. 5. Frequenti centri commerciali e affini solo e solamente in caso di estrema necessità e non per dare un'occhiata o fare un giretto il sabato pomeriggio. 6. Mangiare quando si vuole e cosa si vuole, anche niente. Questi erano gli uomini, queste invece sono le donne. 7. Fare un sereno giro in macchina, in silenzio, senza dover ascoltare gli improperi del guidatore nei confronti degli altri automobilisti. 7. No, siamo già a 8. Cambi programma ogni volta che vuoi. 9. Scegli senza scendere a compromessi dove e come trascorrere le ferie. 10. La frequenza degli incontri con il silk appeal è assai flessibile. 11. È l'ultimo, è di Paola ed è il mio preferito. Se di notte non dormi, nessuno sottolinea l'ovvio chiedendo: non dormi? No, guarda, aspetto con ansia le 2, 3 o 4 del mattino. 800 24 0024, oppure 349 238 6666, perché oggi si dice sì, sono single, me ne vanto e sono felice. Se non sono felice, magari provateci chiamando l'800 24 0024. Veniamo al motivo per cui tutto nasce. È il mio aspirapolvere. Per vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia, eccola qua. L'aspirapolvere. Aspirapolvere marca Black & Decker, modello Dustbuster. Aspirapolvere a scopa con ruote, dotato di tubo flessibile, becco d'aspirazione e scopetta. Colori azzurro e verde, filtro dell'aria, doppia velocità d'aspirazione. Larghezza 25 cm, altezza 1,20 m. Valore commerciale 75 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Preferite stare nelle vostre lenzuola fresche e profumate o indossare per il terzo giorno consecutivo lo stesso paio di calze umidicce? Domanda troppo facile, lo so. Quando ero bambino non sapevo nemmeno perché ci si dovesse cambiare vestiti o il motivo per cui rifare il letto. Io non capivo perché mia mamma ogni mattina apriva la finestra e cominciava a passare per terra un panno di lana. Era normale che lei facesse così, sia chiaro, solo che non sapevo cosa faceva. Mi pareva più che altro una ginnastica, oppure un modo brusco per svegliarmi. Non avevo modo di capire i suoi gesti per un semplice motivo. Io non avevo mai visto una casa sporca. Quando ebbi circa 15 anni, i miei decisero di andare in vacanza, che voleva dire prendersi un po' di tempo senza di me, giustamente. Adesso li capisco anche, poveracci. Ero abbastanza grande per stare da solo e quindi mi dissero: fai il bravo, ci vediamo tra una settimana. Io in casa, insieme a mia sorella ovviamente, facciamo diverse sciocchezze, ma la peggiore è che non ripetei la sequenza di azioni che mia madre aveva sempre compiuto in quella casa, da decenni. Dopo 3 giorni, tutto si autodistrusse. Il lavello della cucina traboccò di piatti e stoviglie, il pavimento diventò grigio e appiccicoso. E il bagno, insomma, il bagno passò dallo status di gioielleria, qual era sempre stato, a quello di cesso, che forse era pure il suo destino. Al quarto giorno scappai dai miei nonni terrorizzato, perché era evidente che la casa era posseduta da qualche demone e che i gesti di mia madre in realtà erano delle preghiere per ringraziarsi una divinità. È solo che io non conoscevo quelle preghiere. Quindi il dio della sporcizia mi avrebbe divorato e magari ucciso, senza pietà. Quando raccontai questa storia, mia nonna disse che ero un imbecille e che era arrivato il momento di imparare l'ABC delle pulizie domestiche. Quindi mi prese e mi riportò a casa e lì mi insegnò ad affrontare gli dèi della polvere e dell'unto. Imparai tutto in poco tempo e con piacere, visto che la casa tornava a sembrare vivibile. Una volta sveglio rifacevo il letto, quindi passavo lo straccio per la polvere, tenevo le finestre aperte per cambiare aria. Poi, dopo aver fatto la colazione o qualsiasi altro pasto, lavavo i piatti. Mia madre, al suo ritorno, non capì la portata epocale del mio cambiamento. Che poi continuasse ad occuparsene lei, vabbè, era chiaro a tutti, insomma, lei era la mamma. Ancora una volta, però, la tragedia era dietro l'angolo. Stavo per arrivare a vivere a Milano. Casa da solo, tanto tempo da dedicare agli studi e nessuna abitudine. Il mio appartamento diventò una discarica. E mi piaceva così anche. Era molto contemporaneo vivere tra vestiti ammassati e oggetti sparsi, senza curarsi della forma, solo della sostanza. Ecco, è stato così che ho conosciuto Giulia, occupandomi della sostanza. Mangiamo tutte le scatolette, beviamo birra, andiamo a fare la spesa al discanto. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, com'è che non ti muovi, com'è possibile? La vita a due non è per niente facile. Spesso mi sono chiesto chi me lo facesse fare, soprattutto quando mi accorgevo che quando si è in due c'è sempre un altro che ti guarda. Sì, lo so, sembra una banalità, però in fondo non lo è. Cioè, se sei in due, devi chiudere la porta del bagno, ad esempio. Se affetti un salame alle 11 di sera, sai che qualcuno sta guardando e giudicando. Se alzi il volume della radio perché c'è quel nuovo pezzo che ti vergogni, che ti piaccia, c'è qualcuno che ti prenderà in giro. E se un giorno salti il tuo turno delle pulizie, c'è una donna che se ne accorge. Sì, perché in due le fatiche si dividono, ma mica come mio padre e mia madre, che uno lavorava e l'altro puliva. No. Oggi, nelle coppie, tutte e due lavorano e tutte e due puliscono. Sembra che con l'avvento della società moderna e delle nuove tecnologie l'impegno quotidiano, anziché diminuire, si sia raddoppiato. Boh, e allora dov'è il vantaggio? Fatto sta che in casa con Giulia ho scoperto che ogni cosa va rimessa al suo posto al massimo la mattina dopo che è stata usata, non la settimana dopo. Cioè, in pratica sono tornato bambino. Un po' come andare a Luna Park. Sapevo che qualcuno avrebbe visto se avevo rimesso i bicchieri nel lavandino, se li avevo magari anche lavati. La vita a due ha un sacco di vantaggi, però si godono di più quando sei solo. Nella mia vita con Giulia non ho solamente cominciato a fare le pulizie di casa seriamente, ma ho conosciuto l'esistenza degli elettrodomestici. Ricordo un film di Alberto Sordi che si chiamava Io e Caterina, dove la protagonista era un robot dalle forme femminili che fungeva da donna delle pulizie, tutto fare casalingo. Un elettrodomestico vero, non quelle cose che ci spacciano per grandi aiuti ma che in realtà portano più che altro preoccupazioni. Ecco, l'aspirapolvere, ad esempio. Cos'è che fa? Sì, vabbè, ok, aspira la polvere, questo è chiaro. ma perché è meglio dello straccio di lana? Cioè, perché non la devi sbattere dal balcone la polvere? Vabbè, ok. Però io quando ero piccolo sbattevo sulla ringhiera la scopa di metallo e facevo suonare pure San Martino Campanara. E con l'aspirapolvere? Cosa ci faccio? Ho pure provato a soffiarci dentro. Niente, succede niente. Poi avrà anche dei vantaggi. Ma non è mica che si passa da solo l'aspirapolvere. Devi pur sempre portarlo in giro, la polvere la devi andare a cercare. In più devi stare attento che il sacchetto non sia pieno, che se esplode è un disastro. E se è pieno devi cambiarlo con attenzione, per non parlare dell'energia elettrica che consuma o del rumore noiosissimo che produce. Ecco, e poi occupa un sacco di spazio. Con Giulia ho scoperto l'esistenza degli elettrodomestici, sì. Ma se della lavatrice ho grande stima, ecco, sull'aspirapolvere sono sempre stato più scettico. Questo alla fin fine si è salvato solo perché non è ingombrante, ha un bel colore e alla fine fa il suo lavoro. E poi ci sono affezionato perché l'ho visto nascere. Sì, perché questa marca te la vende quasi come l'IKEA, no? Che te lo devi montare. Quindi l'ho messo insieme tutto da solo. Mi viene tenerezza pensare quando era solo un cumulo di pezzi di plastica senza anima, uno qua e uno là. Costruirsi qualcosa o scrivere una storia è come fare un figlio. Prima non c'è e poi c'è. La soddisfazione. Sì, ok, io non ho nessun figlio, beh, ma cosa vuol dire? Presumo che sarà così, no? È per quello che alla gente piace fare le cose con le proprie mani. Perché così credono di essere utili. Che senza di loro quella cosa non c'è sulla faccia della terra, non ci sarebbe mai stata. E ne sono fieri. E il mondo forse dovrebbe anche fargli l'applauso per questo. Secondo me succede così anche ai falegnami. Secondo me è successo anche a Mastro Geppetto. Perché la cosa che fa più paura, in fondo, è sempre e solo stare da soli. Ecco perché, nonostante tutto, questa aspirapolvere è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 75 euro, la base d'asta, 99 centesimi. I motivi per essere single, 80024-0024. Radio 24, sono le 16:21, il programma si chiama Vendo Tutto, io invece mi chiamo Matteo Caccia, invece 349-238-6666, arrivano i messaggi di quelli che sono single e più o meno sono felici. Pensa a chi, come me, è single ma è costretto a vivere con altre persone e non può essere libero pur essendo libero. Danilo, fai qualcosa. Il beneficio è che quando dormi puoi girarti nel letto a due piazze in lungo e in largo. È bellissimo, per il resto un po' meno. Ciao Nico. Mi sembrano tutti un po' dei surrogatini. Simone da Bergamo, se dimentichi a casa il cellulare non scoppia il finimondo e non devi fare il terzo grado. 800240024. Andiamo subito a sentire invece chi ha voglia ed è felice di essere single. Andiamo a Terni, da Mirko. Pronto? Pronto. Ciao Mirko. Buonasera. Ciao. Come stai? Bene, grazie. E voi? Mi dai del voi oppure... Guarda, in radio generalmente direi tutto bene, guardarmi in giro. Va bene. No, volevo dire che essere single io mi sono lasciato da... Domani faccio 2 mesi. Mm-hmm. E mi sono lasciato proprio il giorno di Valentino, perché praticamente la mia ragazza diceva che io davo più tempo agli amici che a lei. In realtà non era così, no? Però mi sono accorto che... In questi 2 mesi che lei mi ha lasciato, alla fine sto meglio di prima, perché adesso posso uscire tranquillamente con gli amici. Mirko, scusa, mi dici quanti anni hai? 25. 25. E la tua fidanzata quanti ne aveva? Allora, lei è dell'88, 20. Senti, ma è da quant'è che eravate fidanzati? 2 anni e 1 mese. 2 anni e 1 mese avevamo fatto il 12 febbraio. E scusami, tu quindi quando prima hai detto sono compio 2 mesi è perché sono 2 mesi che sei single? Praticamente sì. No, ok. Quindi insomma, a 20 era stata la prima storia importante, Mirko? La seconda. Ma, Le altre erano state storielle, diciamo. Mazza, a 25 anni ci hai già avuto 2 storie importanti e storielle pure. Sì, beh, sì, le storielle erano quelle lì che duravano 1 mese, 2 mesi, così. Perché cosa poi... fai nella vita, Mirko? Io lavoro, faccio l'autista. Ma quindi l'autista di cosa? L'autista del camion, carrellino. Cos'è il carrellino, scusa, Mirko? Il carrellino e il muletto. Ah, il muletto, ok. Va bene, la finisco di farmi i fatti tuoi. Mirko, grazie mille, buona giornata. Ok, ciao. Alla prossima, ciao. Andiamo a Bari, da Tommaso. Ciao. Ciao Tommaso, come va? Benissimo, sto facendo una cosa pericolosissima che non mi sarei potuto permettere se non fossi single. Cioè? Ovvero guidare senza auricolare la macchina, non lo diciamo a nessuno. No, infatti, non diciamo a nessuno, magari fermati, Tommaso, sì, facciamo che sei fermo. C'è un delirio. delirio, sono abbastanza cauto, non è un problema. Tommaso, tu quanti anni hai? 31. Mio motivo primario della mia attuale felicità di essere single, sì, qual è? È quello di non dover ispezionare casa mia alla ricerca dell'ultimo peletto dei miei gatti, di cui la mia ultima compagna era terrificata completamente, terrorizzata completamente. È una sensazione veramente, voglio dire, di leggerezza, perché da quant'è che sei single, Tommaso? Ah, guarda, tra alti e bassi, prendi e lascia, saranno un paio di mesi. Ma chi ha deciso la fine? Diciamola tutta, hai deciso tu o ha deciso lei? Il destino, guarda. No, il destino non vale, il destino non esiste. Non esiste? Vabbè, insomma, chi ha deciso? Dimmi chi ha deciso, Tommaso, al volo, che poi sento un altro ascoltatore. Forse io. Forse tu. Ok, quindi un buon motivo è che non devi per forza togliere i peli dei gatti. Grazie mille, Tommaso. Ciao, buona giornata. Ciao, stiamo a Milano. Mirko. Sì. Ciao, Mirko. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, bene. Senti, tu, anche tu sei single da poco? Sono tutti single da poco quelli che hanno chiamato oggi. Forse perché cominciano a... Forse perché dopo 2 mesi che non sei single comincia a romperti un po' le balle. Mirko, tu la tua storia qual è? Io sono sposato 10 anni. Ah. Quindi sono da novembre che sono single. Uh-huh. E l'aspirapolvere l'ho usato tantissimo. In questo mese? No, in quei 10 anni. Ah, ok. E quindi in questo da novembre quante volte l'hai usato? Ho qualcuno che lo fa per me, mia mamma. Ah, cioè se no, in attesa che mi consegnino la casa nuova. Oh, ok, ok. Senti Mirko, al volo, sei contento, sì? Sì, sono contento di dopo quello che è successo, insomma, dopo 10 anni... Va bene così. Va bene così. Insomma. Mirko, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo a Lodi, da Cesare, credo sia l'ultima. Pronto? Cesare? Pronto, mi sentite? Io sì, ti sento, no. Io ti sento. Se mi sentite, vabbè. Ti sento, allora fai così, dimmi al volo il motivo per cui da quant'è che io sono un sessantenne che ho scelto di essere single dopo 33 anni di matrimonio. Devo dire che sono risolto, benissimo, bene, sono autonomo e usi l'aspirapolvere anche. Uso anche l'aspirapolvere, tutto faccio. Cesare, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Ciao, grazie. Sono le 16:26, chiudiamo anche questa puntata, però ringraziando Margherita Aina, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. L'aspirapolvere potete vederlo, è sul sito radio24.it, su Facebook, Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo un giaccone di lana, non una roba qualunque, eh. Se avete la casa pulita, invece voi liberatevi del vostro aspirapolvere, che anche un aspirapolvere è solo un aspirapolvere.